si rischia l'ingorgo parlamentare. È stato Draghi a chiamare Merkel e non viceversa, dice il portavoce del governo tedesco. Il confronto, anche se Berlino e Francoforte smentiscono, sarebbe stato aspro. Oggi l'incontro di Draghi con Hollande. Si sente male Salvatore Latorre, uno dei Marò detenuti in India. Il ministro Pinotti vola a New Delhi, ma il fuciliere della Marina non sarebbe grave. Mogherini promette di tutto per riportarli a casa. Il premier polacco Tusk sull'Ucraina. In Europa c'è ancora il rischio della guerra. Mosca promette nessun intervento militare. Europa spaccata tra falchi e colombe. Il comune afflitto dall'assenteismo. Dopo le denunce e i provvedimenti disciplinari, il sindaco di Locri provoca e scrive addio. Non so più a chi altro rivolgermi. Tutti applauditi gli italiani in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Oggi è stato il turno del film di Martone su Leopardi, ieri sera di Costanzo. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, che ritorna dunque dopo la pausa estiva. Torneremo in questa edizione a parlare anche del campionato di calcio, poi ci sarà tutti convocati a partire dalle 14. Parleremo anche di immigrazione con i 1000 portati oggi a Salerno e l'accoglienza al collasso dello Sblocca Italia. C'è uno scontro tra governo e regione Basilicata sulle royalties del petrolio. Effetto Giorno a radio24.it. per scriverci, come sempre, c'è anche la nostra pagina Facebook. In apertura però il conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che inizierà alle 14, una conferenza stampa nella quale presenterà il programma di qui a 1000 giorni. Intanto però si presenta per il prossimo mese un'agenda parlamentare fittissima, dunque iniziamo da qua. Si torna in aula. Questa settimana il Parlamento riapre i battenti dopo la pausa estiva e tra provvedimenti avviati, da avviare e quelli da convertire di certo non mancherà il lavoro per deputati e senatori. Ufficialmente Palazzo Madama inizierà mercoledì esaminando la legge europea liquidata alla Camera a giugno, mentre la Camera si è già riunita martedì scorso per una seduta tecnica per incardinare il decreto stadi e lo farà di nuovo giovedì con all'ordine del giorno la mozione sugli F-35 e il decreto di proroga delle missioni internazionali. La partita più laboriosa è quella della legge di stabilità, che la Camera dovrà esaminare dal 15 ottobre, preceduta dalla nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. Altro capitolo spinoso è lo Jobs Act, la delega al lavoro del ministro Poletti è in commissione lavoro del Senato. I prossimi passaggi parlamentari tra articolo 18 e flessibilità dei contratti rischiano di creare nuove crepe all'interno della maggioranza. E poi al Senato si lavora sulla riforma della pubblica amministrazione, mentre la Camera approda il disegno di legge costituzionale che cambia peso e funzioni del Senato, intervenendo anche sul titolo quinto e che ha tenuto impegnato il Parlamento fino ai primi di agosto. E ancora Palazzo Madama dovrà occuparsi della riforma elettorale, capitolo questo con molte incognite, ma non è finita qui. Si lavora sul decreto sulla giustizia civile, sul cosiddetto Sblocca Italia, che va convertito con tutte le misure per far partire gli investimenti e i cantieri, mentre la Commissione Cultura attende che il governo presenti mercoledì la riforma della scuola. Insomma, un'agenda davvero fitta di impegni e con molte incognite. Alessandra Schetti, Episi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Non guardo in faccia a nessuno, dice intanto il Presidente del Consiglio, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, c'è attesa per questa conferenza stampa Simone che si terrà tra poco a Palazzo Chigi. Guardiamo negli occhi tutti ma non guardiamo in faccia a nessuno. Il premier Matteo Renzi risponde così alle critiche sul piano dei 1000 giorni che presenterà quindi tra poco per rilanciare il nostro paese. Se l'Italia deve cambiare nessuno può chiamarsi fuori, scrive Renzi, nessuno può tirarsi indietro, vale per tutti i settori. I 1000 giorni sono occasione per dimostrare che le riforme si possono fare, bisogna cambiare alla radice e per farlo dobbiamo giocare all'attacco e non in difesa, scegliere il coraggio e non la paura. Questo è il nostro orizzonte per un'Italia libera dalle pastoie burocratiche e dal potere di rendita dei soliti noti. Un'Italia che finalmente fa le riforme dopo averle ossessivamente discusse e rinviate per anni. Fin qui quindi Matteo Renzi. Da parte di Forza Italia Renato Brunetta promette un fact checking giorno per giorno sul governo, mentre Danino Toninelli del Movimento 5 Stelle dice che i 1000 giorni sono già passati e sono stati un disastro. Tra meno di un'ora quindi la conferenza stampa a Palazzo Chigi con Renzi, Del Rio e Boschi. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito e passiamo all'analisi almeno di quello che ci aspetta e di quello che è stato fatto nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno. Allora, partirei da questo passo dopo passo, che è il nuovo slogan lanciato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e che sembra segnare, perdonate il gioco di parole, un cambio di passo rispetto a quella rivoluzione immediata promessa, come dire, subito dopo l'approdo a Palazzo Chigi. Sì, mi sembra che sia corretto, i tempi sono più lunghi, si prospettano più lunghi, l'agenda continua a essere estremamente ricca, però l'attuazione di questi punti programmatici che il Presidente del Consiglio sottolinea essere prioritari per la nostra ripresa e per il profilo riformatore del governo sono distesi su un tempo più lungo, segno che insomma siamo arrivati un po' alla strettoia, quest'autunno segna una strettoia carica di incognite e non è facile immaginare come se ne uscirà, certamente c'è la spinta, c'è la volontà di procedere, ma ci sono anche degli ostacoli evidenti sul cammino del governo, soprattutto c'è la differenza tra un cammino politico istituzionale che comunque non sarà veloce e invece il ritmo della crisi economica, della stagnazione e addirittura della deflazione in cui il paese si trova, che richiederebbe invece un impegno e soprattutto dei risultati molto più brevi. Questa è la contraddizione nella quale si trova oggi alla ripresa post estiva il Presidente del Consiglio, il governo, ma insomma diciamo tutto il paese. E grazie a Stefano Folli per oggi, poi ti ritroveremo naturalmente nei prossimi giorni per continuare a commentare come sempre le vicende politiche. In tutto ciò c'è l'incognita o almeno i dubbi su quello che succederà dalle parti di Francoforte, ossia dal lato della politica monetaria. Qualche dato lo citava già Stefano Folli poco fa, ci torneremo più avanti, e però sta facendo discutere in queste ore la telefonata tra il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si è appreso oggi che la telefonata è partita da Draghi. Secondo alcuni retroscena, il confronto sarebbe stato piuttosto aspro sulle dichiarazioni di Draghi rilasciate a Jackson Hole sulla possibilità che la Banca Centrale Europea intervenga ulteriormente, soprattutto per contrastare la deflazione. Ci colleghiamo col corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Da quello che sai tu, questo confronto è stato aspro oppure no? Ma è sempre difficile dire se i confronti sono aspri o non sono aspri, a meno che non a confermarcelo non sia il Draghi stesso, che chiaramente non lo vuole fare, o la signora Merkel. È evidente che l'incontro, il fatto che l'incontro ci sia stato è trapelato dall'ufficio del cancelliere, è evidente anche che se la BCE fino adesso era sottoposta soprattutto alla pressione dei mercati perché l'inflazione è allo 0,3, quindi ben al di sotto e ben lontana dall'obiettivo di stare vicini al 2%, e con molti paesi, come ha già detto Stefano Folli, in deflazione, compreso l'Italia, adesso la pressione è anche politica e sono pressioni contrapposte, cioè da parte tedesca c'è una certa, diciamo, quantomeno perplessità o freddezza su quello che Draghi ha detto a Jackson Hole, soprattutto sul fatto che si possa andare verso un'austerità più soft, e dall'altra parte diciamo soprattutto dalla Francia e dall'Italia c'è invece un tentativo di avere Draghi come spalla nella operazione di allentare un po' la morsa dell'austerità. Non a caso Draghi, che appunto ha parlato con la Merkel e con Schäuble, oggi pomeriggio alle 4 sarà all'Eliseo per incontrare Hollande. Alessandro, c'è chi legge nel fatto che sia stato Draghi a telefonare alla Merkel, c'è chi legge una sorta di excusatio non petita. Ma diciamo che questi contatti sono abbastanza frequenti, più di quanto probabilmente non si voglia ammettere da una parte e dall'altra, non solo con la signora Merkel, ma un po' con tutti i leader europei. Non dimentichiamo che insomma la situazione in Europa non solo è precaria, ma è peggiore di quello che ci si aspettava qualche mese, forse anche solo qualche settimana fa, quindi questi contatti sono molto stretti, non solo ai vertici, ma anche questi contatti informali, e Draghi evidentemente ne è parte. Non dimentichiamo che tra l'altro giovedì ci sarà la riunione della BCE, dove magari non ci saranno nuovi annunci, ma Draghi dovrà precisare meglio quello che intende fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Passiamo a parlare della vicenda dei due Marò, perché c'è stato un malore per uno dei due. Il ministro Pinotti è volata in India. Massimiliano Latorre ha reagito bene alle prime cure. Sono soddisfatti i medici del Dipartimento di Neurologia dell'ospedale di New Delhi, dove ieri è stato ricoverato il fuciliere di Marina in seguito ad un malore. Nella notte è partita per l'India anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, per accertarsi di persona delle condizioni di salute di Latorre, che comunque non sarebbero gravi, e stare vicino ai familiari che in questo periodo si trovano a New Delhi. Il fuciliere è trattenuto in India dal febbraio 2012 insieme a Salvatore Girone, con l'accusa per entrambi di omicidio. E se numerosi esponenti politici in queste ore chiedono il ritorno in Italia per i due Marò, il ministro degli esteri Mogherini sottolinea che riportare i Marò in Italia rimane una delle priorità del governo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero con la situazione in Ucraina. Mai più guerra, ha esordito il premier polacco Tusk commemorando il 75esimo anniversario dell'aggressione nazista alla Polonia, cui seguirono quella dell'Unione Sovietica e infine l'esplosione della Seconda Guerra Mondiale. Non è tempo di bei discorsi, ha proseguito il presidente in pectore del Consiglio Europeo. In Europa c'è il rischio di una guerra e il campo di battaglia potrebbe non limitarsi alla sola Ucraina. L'alleanza euroatlantica, quindi, ha insistito Tusk, assuma una dimensione pratica, perché il settembre 1939 non deve più ripetersi. Al vertice NATO di giovedì la Polonia troverà diversi altri paesi sulle sue posizioni, Gran Bretagna in testa, ma altri sul fronte opposto, come la Germania. Non daremo armi all'Ucraina, ha detto la cancelliera tedesca Merkel. Piuttosto l'Europa concordi altre sanzioni a Mosca se non ci saranno novità positive entro una settimana. Kiev intanto denuncia nuove incursioni russe sul suo territorio. Mosca non raccoglie e assicura di non avere intenzione di intervenire militarmente in Ucraina. Ci auguriamo che il vertice di oggi a Minsk, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, porti a un immediato cessate il fuoco. Vogliamo una soluzione politica della crisi. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Passiamo al cinema. Centinaia di foto private di attrici americane, tra cui il premio Oscar Jennifer Lawrence, protagonista del lato positivo e della serie Hunger Games, sono finite in rete. Gli hacker sarebbero riusciti a bucare la sicurezza di iCloud, il sistema dell'Apple di archiviazione in rete dei propri file. Ma se si parla di cinema, in questi giorni naturalmente si parla del Festival di Venezia. Ci colleghiamo con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, buongiorno innanzitutto. Buongiorno Simone, bentornato. Grazie, bentornata a te, e che ci racconterai di successi italiani, perché mi sembra che gli applausi siano arrivati per tutti finora. Ebbene sì, perché tre i film italiani in concorso in Corsa per il Leone d'Oro. Questa mattina per la stampa, intanto poi sentiremo l'accoglienza del pubblico, Il giovane favoloso di Mario Martone con Elio Germano nel ruolo di Giacomo Leopardi, per lui applausi. C'erano stati applausi anche per Anime Nere, il noir nerissimo ambientato in Calabria, destinato probabilmente a seguire i fasti di Gomorra, il film di Federico Munzi. Ieri è stata invece la giornata di Hungry Hearts, un film completamente diverso perché Saverio Costanzo ha diretto Alvar Orbacher e la rivelazione del cinema americano Adam Driver, in un film che è proprio un indie statunitense. Si è trasferito per 4 settimane a New York per girare questo film, la storia di una mamma che rimane preda dell'ossessione per la salute del suo bambino, ma così ha raccontato l'avventura americana Alvar Orbacher. Come abbiamo girato, siamo arrivati con i nostri piccoli mezzi fragili nel paese dove il cinema lo sanno veramente fare, e abbiamo in un tempo breve provato a raccontare questa storia in cui credevamo. E anche il fatto che Adam avesse accettato così, proviamoci, facciamolo, è stato sicuramente un incentivo a dire sentiamo che è giusto farlo, e ci dicono, chi aderisce, chi sta aderendo, ci dimostra che forse c'ha un senso provare a raccontare questa storia. Marta? Ecco Simone. Eccoci. Sì. Ecco, In questo momento invece è il momento di un'altra protagonista di questa mostra del cinema di Venezia, un evento fuori concorso, un evento speciale ma molto significativo, perché ieri sera c'è stata la proiezione di un'intera serie di HBO, Olive Kitteridge, il che vuol dire ancora una volta che la grande televisione sta prendendo un posto sempre più importante anche nel mondo del cinema. Straordinaria la protagonista, la bravissima Frances McDormand, una serie che vedremo anche in Italia, intanto il battesimo del fuoco per questa serie televisiva al cinema. Grazie, grazie alla nostra Marta Cagnola, inviata a Venezia dove si sta svolgendo il Festival del Cinema. E veniamo al calcio, la prima di campionato consegna conferme come quelle di Juve e Roma e un Milan che appare decisamente tonico. Buona la prima e speriamo anche la seconda e la terza. I tifosi rossoneri, abituati alle sabbie mobili della scorsa stagione, non credono ai loro occhi. Questo Milan non solo vince rifilando 3 gol alla Lazio, ma è solido, costruito su fondamenta stabili, nonostante il mercato a braccino corto di Galliani. Vero che siamo la prima, però in attesa di Torres, Van Ginkel e Montolivo, meglio partire bene che partire male. Di delusioni che fanno crescere ne hanno già fatto il pieno l'anno scorso e le lasciano volentieri all'Inter, che ieri con un Torino non proprio esplosivo non è andata oltre lo 0-0. Che la Juventus e la Roma potessero subito funzionare lo si immaginava e lo hanno ribadito sul campo. Che la firma di Super Pippo fosse così visibile dopo solo 50 giorni, beh, non era scontato, tanto più che la Lazio non è l'ultima della classe. E ora si passa alla nazionale di Conte, che avrà i suoi problemi a mettere assieme una squadra decente in un campionato che di Italia ha ormai solo il nome, passa sempre lo straniero e anche Cerci se ne va. E i famosi vivai ci limitiamo a sognarli più che a farli. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a conferma di quello che ci diceva il nostro Dario Ceccarelli, stanno arrivando in questi minuti le dichiarazioni di Antonio Conte al suo primo giorno di lavoro a Coverciano. Dice: è allarmante aver visto gare di prima fascia senza italiani in campo o appena uno o due. La nazionale deve essere un traino per rilanciare il calcio, ma devono metterci nelle condizioni di riuscire. Ancora Conte ha parlato anche di Balotelli, dice: non ho alcuna preclusione, ma non regalo niente a nessuno. Non è detto che chi non c'è ora non torni e viceversa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Bisogna giocare all'attacco, liberiamo l'Italia da pastoie e rendite, dice il presidente del Consiglio Renzi, che tra poco in conferenza stampa presenta il programma dei 1000 giorni. È stato Draghi a chiamare Merkel e non viceversa, dice il portavoce del governo tedesco. Il confronto, anche se Berlino e Francoforte smentiscono, sarebbe stato aspro. Ha avuto una leggera ischemia dalla quale si sarebbe già ripreso Salvatore Latorre, uno dei marò detenuti in India. Il ministro Pinotti vola a New Delhi, Mogherini promette di tutto per riportarli a casa. Il premier polacco Tusk sull'Ucraina: in Europa c'è ancora il rischio della guerra. 7 soldati uccisi ed altri 25 feriti nelle ultime 24 ore nell'area dell'operazione militare contro i separatisti filorussi. Calcio: Conte al suo primo giorno di lavoro da CT lancia l'allarme sui troppi stranieri in campo nella prima di campionato. Allarmante vedere così pochi italiani nella prima fascia. Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, la chiamiamo perché a conclusione di questo fine settimana, che insomma di fatto abbiamo aperto venerdì con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto legge per la riduzione dell'arretrato civile e invece una serie di linee guida, per così dire, per quanto riguarda invece la riforma della giustizia anche penale e la responsabilità civile dei magistrati, volevamo sentire esattamente che cosa ne pensate, proprio a proposito dell'ipotesi di estensione della responsabilità civile dei magistrati, che mi sembra abbia raccolto le vostre perplessità. Sì, guardi, le nostre perplessità sono, ancor prima che sul testo della riforma che presenta diversi aspetti critici, sulla, come dire, sulla centralità che questo tema della responsabilità civile dei magistrati ha assunto nel dibattito pubblico in tema di riforma della giustizia. Scendendo nello specifico, noi abbiamo criticato la radicale eliminazione del filtro di ammissibilità, senza peraltro che questa eliminazione sia stata preceduta da uno studio serio di come in concreto il filtro di ammissibilità ha funzionato, al di là dei luoghi comuni e di quello che si ripete sul fatto che ci sono state poche condanne nel resto dell'Europa. le condanne sono state anche meno che in Italia. Le condanne intende per dolo e colpa grave dei magistrati sono state 9 in tutto nell'ultima dozzina d'anni, o mi sbaglio? Guardi, io non conosco i numeri, le posso dire che i numeri esatti delle condanne, le posso dire che il numero di azioni civili è stato di svariate centinaia, ma il quadro europeo ci mostra, che so, la Gran Bretagna, dove non esiste praticamente affatto la responsabilità civile dei magistrati, ad altri paesi come la Germania o la Spagna, che hanno un sistema analogo al nostro, ma dove il numero delle condanne alla fine è comunque molto, molto limitato. Ma vede, concentrare, come le dicevo, tutto il tema della riforma della giustizia o prevalentemente il dibattito pubblico sulla questione della responsabilità civile vuol dire veramente spostare il punto d'attenzione rispetto a quello che invece è il tema centrale, che è il tema dell'efficienza, che evidentemente con la riforma della responsabilità civile non c'entra proprio nulla, perché il problema della giustizia italiana è un problema di lentezza, di farraginosità delle procedure e soprattutto del numero altissimo di contenzioso. Se vediamo i numeri, e parlo di numeri individuali. Senta, mi scusi, proprio a proposito di questo, Sabelli, il decreto legge per ridurre l'arretrato nel civile e per favorire soluzioni stragiudiziali, cioè al di fuori del giudizio, la convince, vi convince oppure no? Ma guardi, sì, per carità, noi siamo favorevoli a queste soluzioni stragiudiziali, cioè soluzioni che cercano di disincentivare il ricorso alla causa e trovare dei luoghi diversi dal tribunale di soluzione di queste controversie. Il problema è che queste soluzioni devono essere in qualche modo incentivate, e questi incentivi possono essere o vantaggi economici oppure delle sanzioni per chi invece coltiva delle cause infondate, perché nelle linee guida, nei testi che dovrebbero venire dal governo, ci sono, a parte queste soluzioni stragiudiziali, dovrebbero esserci anche delle altre soluzioni, quali ad esempio l'aumento dei casi di condanna obbligatoria alle spese di vite, l'aumento degli interessi legali per gli inadempienti, cioè per coloro che ritardano intenzionalmente di pagare. E questo le sembra l'aspetto più interessante, mi sembra di capire, Sabelli? Questo è l'aspetto più interessante, perché vede, una giustizia civile che non funziona è patogena, non è solo patologica, è anche patogena, perché favorisce quello che è l'autofinanziamento attraverso l'inadempimento. Io so che le cause civili durano molto, non pago quello che so di dover pagare, tanto confido in una giustizia lenta, in una giustizia che arriverà di qui a molti anni senza nessun particolare danno. La riduzione delle ferie, non vuole adempiere. La riduzione delle ferie dei tribunali vi sembra qualcosa di utile oppure no? Ma guardi, ridurre il problema dell'efficienza alla sospensione feriale veramente mi sembra un fuor d'opera. Però ci può stare, no? Però ci può stare, o no? Vede, allora, se anche in ipotesi si eliminasse, a parte che, come ho già detto in altre occasioni, nessun cittadino troverà chiuso per ferie su nessun tribunale o nessuna procura, ma se anche si eliminasse del tutto la sospensione feriale, perché poi un conto è la sospensione feriale, un conto sono le ferie dei magistrati evidentemente, noi non sapremmo neanche con chi fare le udienze in pieno agosto. Il problema dell'efficienza della giustizia è un problema di risorse, no, le udienze non si possono aumentare perché non ci sono cancellieri e perché non viene pagato lo straordinario al personale amministrativo. Mi pare veramente che quello della sospensione feriale sia un problema molto, molto secondario. La giustizia ha bisogno di risorse, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di personale. La ringrazio. Grazie Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e saluto Giovanni Calabrese, sindaco di Locri. Sindaco, buongiorno. Allora, lei ha fatto una cosa che ci ha oggettivamente incuriosito. Ha scritto una lettera a Gesù Cristo perché non riesce a combattere l'assenteismo nel suo comune. È così, ho capito bene? Chiaro che è una provocazione, per carità, però. È una forte provocazione, ovviamente. Dopo un anno, dopo che faccio il sindaco, quando mi sono insediato, ho provato in tutti i modi a far capire ai dipendenti comunali che è necessario lavorare perché sono pagati con i soldi dei contribuenti dei cittadini, e però ho riscontrato questo problema dell'assenteismo, specialmente anche l'assenteismo per malattia, e abbiamo anche denunciato la cosa alla Procura della Repubblica, alle autorità competenti, e però ci sono una serie di situazioni, di casi che mi hanno portato alla fine per sfogo a scrivere questa lettera al Divinissimo Signore Gesù Cristo. Tra l'altro mi ritrovo una dotazione organica di 125 dipendenti che abbiamo ridotto a 96, proprio da oggi 13 dipendenti grazie al decreto 101 del 2013 andranno in pensione proprio da stamattina. Dentro fine anno altri 17 dipendenti che matureranno la pensione nei prossimi due anni saranno collocati in disponibilità, quindi noi stiamo riducendo di fatto la dotazione organica dell'ente. Poi continua ad esserci un assenteismo, tra l'altro molti dipendenti abbiamo riscontrato delle anomalie che sono abili al lavoro ma inabili a lavori pesanti. Vi faccio un esempio: su 7 vigili 3 non sono parzialmente abili al lavoro, c'è la certificazione medica che non possono stare in posizione eretta per più di 2 ore, è un po' una cosa assurda, insomma. Quindi la provocazione è questa, evidenziare i limiti che ha un sindaco nel poter operare. E quindi lei nemmeno questi 3 li posso spostare in un'altra collocazione comunale e prendere 3 persone pienamente abili a fare il vigile urbano? No, assolutamente, i sindaci abbiamo le mani legate. Cioè, ci sono dei vincoli normativi. Senta, ha detto 125 dipendenti, e quanti se ne presentano al lavoro ogni giorno? Ma tenga conto non molti, poi all'improvviso scompaiono. L'altro giorno ho denunciato un dipendente che è scomparso, all'improvviso è scomparso, abbiamo anche denunciato. All'improvviso, cosa vuol dire all'improvviso scompare? Stava lavorando, se n'è andato a casa, abbiamo mandato i vigili urbani a prenderlo a casa, e lui poi ha cercato di giustificare tale assenza. Io le faccio un esempio: io ho riscontrato nel 2013 su 125 dipendenti 3.324 giorni di malattia, escluse le malattie per terapia salvavita o gravidanza. Quindi mediamente sono assenti giornalmente per malattia 17 dipendenti. Giornalmente per malattia. Cioè, questo è l'analisi statistica del 2013. Più o meno diciamo un 12-13% è la forza lavoro, sostanzialmente ogni giorno è in malattia. Considerate che mediamente in un'azienda è circa il 4% il livello di assenteismo, e voi siete sul 12%. Ma lei, ultima domanda che le faccio, si è trovato addirittura a tappare le buche per strada lei col vice sindaco? Io con i miei collaboratori, io mi sono sostituito e anche all'assistente scuolabus Bonino per diversamente abili per la scomparsa improvvisa dell'assistente scuolabus, e noi a volte andiamo a gestire anche la viabilità in città, noi facciamo di tutto. Fortunatamente siamo una giunta di giovani, cooperiamo per la città, però risentiamo di queste criticità, e stiamo risanando un ente che era in predissesto finanziario. Abbiamo cercato di far capire che è necessario l'aiuto di tutti, ma non abbiamo avuto grosse risposte. Venga conto che c'è una parte dei dipendenti che fortunatamente collabora, sì, ma una parte minima. Allora, grazie al sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. La terremo d'occhio e magari nel corso dell'anno ci risentiremo. Sentiremo un altro sindaco tra poco, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, perché a Salerno ci sono i centri nei quali vengono portati i migranti che sono letteralmente al collasso. Oggi è arrivata una nave portandone altri 1.000. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Bisogna giocare all'attacco, liberiamo l'Italia da pastoie e rendite, dice Renzi. È stato Draghi a chiamare Merkel e non viceversa, il confronto sarebbe stato aspro. Ha avuto una leggera ischemia dalla quale si sarebbe già ripreso Salvatore Latorre, uno dei marò detenuti in India. 7 soldati e altri 25 uccisi, 25 feriti nelle ultime 24 ore nell'area dell'operazione militare in Ucraina contro i separatisti filorussi. Calcio: Conte al suo primo giorno di lavoro da CT lancia l'allarme sui troppi stranieri in campo nella prima di campionato. È il momento della borsa. Borse in diretta. FTSE O'Share che cede 0.5 punto percentuale, FTSE MIB altrettanto negativa, anche Francoforte seppur di poco, dello 0,01%, Parigi che scende dello 0,22% e Londra dello 0,02%. Oggi l'America, la borsa americana sarà chiusa. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai vanno male i mercati? Ma innanzitutto preoccupa la delicata situazione geopolitica internazionale con la situazione tra Russia e Ucraina che rimane molto sotto i riflettori. Del resto il rublo proprio stamattina ha toccato nuovi minimi storici nei confronti del dollaro e minimi da 4 mesi nei confronti dell'euro. In più a metà mattina sono emersi dati poco incoraggianti proprio sulla zona euro, con l'attività manifatturiera misurata dall'indice PMI che ha rallentato il passo, l'indice si è portato sui minimi da oltre un anno, ma soprattutto è andata male l'attività manifatturiera in Italia, siamo tornati in uno stato di contrazione con l'indice PMI che si è spinto a 49,8 punti, il minimo da 14 mesi. Allora, negativi molti bancari, Banco Popolare meno 2,3, Monte dei Paschi meno 2,2, Popolare Emilia Romagna meno 1,72%, Mediobanca 1,5% di calo, Intesa San Paolo che cede l'1,33%, bene, ST Microelectronics che guadagna l'1,10, Tenaris lo 0,66, e bene, tra i bancari la Popolare di Milano che guadagna lo 0,6%, bene, anche ST Microelectronics più 1,10, Luxottica più 0,27, oggi dovrebbe essere annunciato il cambio della guardia al vertice del gruppo. Grazie Eleonora Micheli e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E a proposito dell'intervista che abbiamo appena realizzato con il sindaco di Locri, a proposito dell'assenteismo, ha ragione che ci scrive al 349-238-6666 che c'è un problema anche dei medici che certificano la malattia. Salutiamo, come si diceva, un altro sindaco, Vincenzo De Luca, che è sindaco di Salerno. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei. La chiamiamo per tutt'altro argomento, in realtà la chiamiamo perché questa mattina a Salerno è arrivata la fregata Fasan, che fa parte della Marina Militare Italiana e fa parte dell'operazione Mare Nostrum, e ha portato a Salerno 1044 migranti. Io vorrei capire da lei com'è la condizione dell'accoglienza, perché il prefetto anche di Salerno ha lanciato un allarme da questo punto di vista. Prego. Guardi, noi ci stiamo muovendo sulla base di un doppio principio, grande umanità e solidarietà, come è doveroso nei confronti di chi fugge dalle guerre, dalle persecuzioni religiose, dai tagliatori di teste, e insieme grande realismo e senso delle cose. Umanità, abbiamo accolto, questa è ormai l'ennesima nave che sbarca, con grande disponibilità i migranti. Diamo una mano per l'identificazione, per le cure sanitarie, ma nel contempo abbiamo già avvertito il Ministero dell'Interno che già da 2 settimane non siamo in grado di garantire più nessuna accoglienza. Quante persone accogliete in questo momento, Sindaco? C'è un altro migliaio che sbarcano. Per la verità noi facciamo da base di sosta in attesa che vengano dirottati poi in altre parti d'Italia. Dobbiamo curare la parte sanitaria, curare nelle nostre strutture sanitarie soprattutto persone ammalate, e sui comuni fino ad ora veniva scaricata la responsabilità dell'accoglienza dei bambini, dei minori. Questo lo abbiamo fatto, ripeto, al massimo e al limite delle nostre possibilità. Poi abbiamo comunicato al Ministero che non siamo più in grado di garantire questo servizio per 2 ragioni, perché non ci sono più strutture e perché non c'è più un euro disponibile, e qui deve scattare il secondo aspetto del problema, grande realismo e grande serietà. Un conto è la solidarietà, che è doverosa, un altro conto è illudere anche questi migranti sulla possibilità di trovare risposte civili nel nostro paese, perché non è più così. Io non credo che la soluzione possa essere Frontex, cioè spostare sul piano europeo questo tipo di intervento, diventa illusorio, è come immaginare di fermare uno tsunami, un'onda di migranti con le mani nude. Si prevedono altri 100.000 migranti per le tragedie che abbiamo in Libia, la disgregazione ormai della Libia. La soluzione a mio parere è un'altra e doveva essere già perseguita, e cioè avere l'autorizzazione per le Nazioni Unite ad aprire centri di accoglienza sulla costa nordafricana, gestiti protetti e difesi, tutelati anche dalle truppe delle Nazioni Unite, nei quali centri garantire condizioni di accoglienza civile e dignitosa. Questo ci eviterebbe centinaia di morti che continueremmo ad avere nel Mediterraneo e consentirebbe, ripeto, di organizzare il servizio in maniera seria. E questa è una delle ipotesi, tra l'altro, che circolavano, è stata anche una delle tante proposte italiane arrivate sul tavolo, chissà quanto perseguibile. Io vorrei capire da lei, De Luca, insomma, a questo punto che fate semplicemente come comune, insomma, come zona? Cioè, lei mi dice, non siamo più in grado di offrire questa accoglienza. Perché fino a due settimane fa, prima che lo comunicassimo, l'atteggiamento del Ministero era questo: per i migranti adulti vediamo noi con le prefetture come collocarli in varie parti d'Italia, per i minori è responsabilità del Comune, del settore delle politiche sociali, trovare le forme di ospitalità e d'accoglienza. Abbiamo spiegato in maniera molto chiara che i comuni devono pagare questi servizi, non è che possono farli a titolo gratuito, devono trovare le strutture di accoglienza che non ci sono più perché sono sature e devono caricarsi gli oneri per pagare quelli che gestiscono. Sì, senza contare De Luca, piccolo spunto di riflessione, qua la saluto, che generalmente adulti e minori quando arrivano in Italia e partono da un qualche luogo sono collegati e quindi farli gestire a due soggetti differenti deve essere anche piuttosto complicato. Comunque la ringrazio, grazie a Vincenzo De Luca, grazie, sindaco di Salerno, e saluto un altro amministratore locale, Marcello Pittella, che è presidente della regione Basilicata, ma mi dicono che è caduta la linea. Allora, qual è il punto? Di cosa vogliamo parlare con Pittella? Come sapete, con lo Sblocca Italia si è parlato della possibilità di riprendere e di ritornare a ragionare sulle trivellazioni in Basilicata. La Basilicata chiede che le royalties che arrivano dal petrolio siano escluse dal patto di stabilità che impedisce di fatto agli enti locali un patto di stabilità interno che impedisce agli enti locali di spendere, insomma, oltre certe cifre. Ebbene, pare che i requisiti del decreto al momento, per quel che ne sappiamo, il testo non c'è ancora, non soddisfino la regione. Marcello Pittella, siamo riusciti a recuperarla, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, in sostanza, da quel che ho capito, il decreto prevederebbe che le cose che voi potete escludere dal patto di stabilità sono le royalties sull'estrazione di petrolio, ma solo sulle nuove estrazioni, non su quelle vecchie, solo per i prossimi 3 anni. Ho capito bene? Ha capito bene, l'articolato in questo al momento recita esattamente così. Noi stiamo lavorando con il governo, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per cercare di modificare, perché altrimenti questo emendamento, questo articolo non soddisfa le esigenze vitali della nostra regione. Lei parla di esigenze vitali, nel senso che se... ci spieghi. Le dico subito, noi incameriamo dalla regione, dalle royalties del petrolio 166 milioni di euro all'anno. Queste risorse sono ovviamente risorse provenienti dalla produzione del nostro territorio. No, entrano nel bilancio regionale e sostanzialmente entrano nel patto, ciò significa che le risorse vocate allo sviluppo del territorio non possono essere utilizzate. Cioè voi avete sti 166 milioni di euro fermi là? No, ne abbiamo di più, perché nel tempo abbiamo una cassa che cuba 600 milioni di euro e io non posso pagare comuni, servizi, imprese, lavori pubblici, sono bloccato avendo i soldi in cassa. Cioè ha 600 milioni di euro in cassa e non li può sfruttare? Assolutamente no, non li posso utilizzare. Ed è un'assurdità, perché il petrolio per una regione piccola come la nostra rappresenta una specificità in assoluto in Italia, perché noi contribuiamo al 7% del fabbisogno energetico nazionale, è il più grande giacimento d'Europa. Senta una cosa, Pittella, nel caso non riceveste soddisfazione dal governo da questo punto di vista, che cosa farete? Ah, noi faremo, ci faremo sentire ovviamente sul piano politico istituzionale, ma c'è una comunità che ancora però ha fiducia e crede che ce la si possa fare, che si possa aggiungere dal governo, diciamo, quella sensibilità che noi riconosciamo. Esattamente per quanto questa regione. Però mi scusi se il governo, mi scusi, però se il governo decide d'imperio, dice no, qua si trivella e si fa secondo queste regole. Voi che. Noi reagiremo con le nostre forze, ci opporremo in tutti i modi. E cioè in che modo? Guardi, innanzitutto con una battaglia parlamentare, in secondo luogo ricorrendo per incostituzionalità del decreto. E in terzo modo manifestando nel modo che possiamo, si ricorderà che la Basilicata in altra epoca è stata protagonista di battaglie straordinarie. Immagina qualcosa tipo le proteste di Scanzano Ionico. Potremmo annoverare anche quelle se non dovessimo arrivare a una soluzione. Io comunque continuo a lavorare perché si arrivi ad una soluzione. Grazie Marcello Pittella, presidente della Basilicata. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, grazie a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo tra poco con GR24 e poi domani con Effetto Giorno. Una buona giornata da Simone Spezia. Lo scorso anno abbiamo contato oltre 115.000 visitatori, più di 1.000 imbarcazioni, 750 espositori da tutto il mondo e più di 600 eventi e workshop. Anche quest'anno siamo orgogliosi di ospitare l'eccellenza della nautica, 54esimo Salone Nautico Internazionale, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. In azienda i file scrivili come vuoi, con la K li trovi subito. K Files, la soluzione Kalian per conservare documenti e fatture per la pubblica amministrazione. K Files è un adempimento, diventa un vantaggio. Chiama l'800-199-983 o vai su documentisicuri.it. Avevo il colesterolo un po' alto, eppure pensavo di avere una vita sana. Mi sbagliavo, me lo diceva il dottore. Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Fai una vita sana e prova Danacol. Grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo. E per il mese del cuore Danacol ti regala un consulto telefonico con i medici SISA. Informazioni su danacol.it. Assenteismo. Axerta. Dal 1963. Investigazioni aziendali. 800-800-007. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Mal di testa. Anche oggi? È la terza volta. Puoi provare il mio Ketodol? Quando il mal di testa si ripete, puoi provare Ketodol. Ha due principi attivi, uno analgesico e uno protettivo della mucosa gastrica. Contro il mal di testa, Ketodol. È un medicinale a base di ketoprofeni che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Hai sentito? Oggi puoi pagare la polizza auto a rate mensili a tasso zero. Sì, e io sono un DJ, ragazzi! E anche per questo pomeriggio insieme alla console con voi. Con Unipol Sai Assicurazioni, nata da Unipol Assicurazioni, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, paghi la polizza auto a rate mensili a tasso zero. L'offerta scade il 31/12/2014.